9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 15 di aprile, Sant'Annibale. Oggi ci porremo un problema di quelli che ricorrentemente non mi esaltano, perché sto fuori dalle cronache della politica. Lo spiego spesso perché preferisco occuparmi di temi concreti, delle manovre economiche che ci sono o che non ci sono, più delle volte dei problemi delle imprese, dei contribuenti, e di fare trasmissioni a volte comparate sui temi degli altri paesi per porci l'interrogativo del come mai sia possibile che altrove si mettano nell'agenda politica scelte di grande impatto, con grandi numeri in questione, con svolte o conferme di politiche economiche con più Stato, meno Stato, più tasse, meno tasse. Lo abbiamo visto in America, lo abbiamo visto in Germania, in tutte le trasmissioni che mi sforzo di dedicare a questi temi più concreti, e rifuggo di solito dalle questioni della cronaca quotidiana, che invece nella gerarchia delle notizie dei media hanno di solito la preminenza, ed è anche comprensibile. Io capisco i direttori che devono assolutamente inseguire la gerarchia delle notizie, anche se io, a dire la verità, forse è per questo che poi non mi hanno più dato un media in mano, non l'avrei seguita da un bel po' a questa parte, avrei aperto con altre notizie, avrei spiazzato chissà con quale successo, probabilmente poco o nulla di pubblico, però in altre parole, di solito non rincorriamo in questa sede le battute, le boutade, le sparate polemiche, i temi della giustizia nella politica, nella politica nella giustizia, che pure sono come sempre al centro. E tuttavia oggi ci poniamo un problema con l'importanza che esso merita, se fosse da prendere sul serio, naturalmente. Questa è la premessa sulla quale io non sono affatto certo, ma magari interlocutori che abbiamo invitato e voi che chiamerete all'800 24 00 24 invece siete convinti che va preso sul serio. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle dichiarazioni rese dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi 2 sere fa a una cena con la stampa estera, e sono state riportate dai giornali, dai media italiani e internazionali ieri con un qualche rilievo, anzi ieri era l'apertura obbligata di tutti i giornali italiani. Berlusconi non mi ricandido, questa era la frase, non mi ricandido né penso di andare al Quirinale il candidato al centrodestra sarà Gianni Letta, e per il guida del centrodestra alle elezioni il candidato è Angelino Alfano, l'attuale ministro della giustizia. Ecco, credere o non credere a queste dichiarazioni, leggervi la difficoltà momentanea nei rapporti con il Quirinale, nei rapporti con l'opinione pubblica, nei sondaggi. Si vedono pochi sondaggi da qualche tempo a questa parte, ci avete fatto caso? Qualche effetto ci deve essere del nuovo picco polemico dei provvedimenti ad personam da una parte, dall'altra dell'inizio dei processi venuti meno gli scudi, e con la polemica intorno al caso Ruby. Ecco, sono curioso di capire se queste dichiarazioni del Presidente del Consiglio rappresentano l'ennesima variabile tattica di un impolitico di successo, come si è rivelato a 17 anni a questa parte Silvio Berlusconi, fuori da tutti i canoni, fuori da tutti gli stili, oltre, prima, dopo ogni possibile idea di stile, da una parte, e dall'altra con tutto l'accanimento che questo ha comportato nei suoi confronti da parte della magistratura, di un pezzo della politica, accanimento che ne ha eternato un pezzo di mito, che gli ha consentito la spalla su cui appoggiarsi per rendere meno evidenti tutte le promesse non mantenute per quello che riguarda ciò che sta più a cuore a quelli come me, le tasse, lo Stato, l'efficienza, l'economia, e che continua invece a rappresentare l'eterno ritorno dopo 17 anni di questa specie di film che non vede mai the end, alla fine, dove il film non è quello della parabola personale di Berlusconi, non confondetemi, il film è quello di una politica che torna a occuparsi decentemente, con un minimo di decoro, un minimo appena accettabile, di qualche cosa che concretamente sia una risposta ai temi di come crescere di più, perché è il vero problema di questo paese, come crescere di più, come adottare almeno qualcuno dei tanti istituti che negli altri paesi, dal mercato del lavoro alla giustizia civile, dall'organizzazione del sistema tributario alla possono essere presi con gli adattamenti, perché non si tratta di copiare, e consentire all'Italia di essere un paese un po' meno lontano e un po' dagli standard degli altri, un po' meno in fondo nelle graduatorie internazionali che incessantemente vi proponiamo e che ormai ci hanno levato ogni sorriso. E chiudevamo, vi ricordate, la trasmissione di ieri dicendo: il problema fondamentale per chi la pensa come noi è quello di evitare la rassegnazione. Rassegnarsi è sbagliato, anche se dopo tanti anni si promette e non si mantiene e l'agenda è sempre un'altra. Chi si rassegna è perduto, perché l'Italia ha bisogno di scelte. Questa è la mia premessa iniziale, e gli ospiti di questa prima parte della trasmissione sono una giornalista che io considero un'osservatrice attenta, disinvolta e tagliente da molti anni. Io la conosco, non voglio dire da quanto, perché mi fa impressione, ci pensavo ieri, dai tempi di prima di Demita e Craxi, e Barbara Palombelli. Buongiorno Barbara Palombelli. Buongiorno Oscar e buongiorno a tutti i ascoltatori. E Mario Secchi, il direttore del Tempo. Buongiorno al direttore Secchi. Buongiorno. Allora, Barbara Palombelli, impressione di questa battuta, l'ennesimo atto di una commedia troppo lunga, oppure insomma c'è qualcosa di fondo? Un pochino l'hai già detto tu, è un sondaggio. Tutti i giorni la squadra del Cavaliere, da tanti anni esiste pure un mattinale che viene compilato da colleghi, tra l'altro amici, ex colleghi di Panorama e altri, che studia l'effetto delle uscite del Premier. Quindi buttare lì il nome di Fano, che tra l'altro è un politico giovane, con molte qualità, è una persona molto colta, brillante, sicuramente è uno degli emergenti di quell'area, significa vedere l'effetto che fa. Tu hai detto poco fa, non ci sono più sondaggi o se ne vedono meno, però quello è sicuramente un sondaggio. Anche di far dire prima a Giuliano Ferrara e poi ad altri me ne vado, che è una tattica, insomma, se vogliamo, tipica anche dell'abilissimo grande venditore di politica, no? Che magari ti mette una merce davanti e poi si toglie. Quindi sono le tattiche classiche di questi 17 anni, rispetto alle quali, con molto mio dolore, cosa c'è oggi sulle pagine dei giornali? Una proposta di Veltroni di dire primarie obbligatorie, capisci? Allora, l'inadeguatezza dell'altra parte, perché comunque, insomma, parliamoci chiaro, Berlusconi parla di futuro, no? Adesso proverà altri nomi, farà altri altre battute casuali, smentite, ora, però insomma si capisce che è uno che sta lavorando. Gli altri lo guardano, lo criticano, ma non si capisce che futuro immaginano per l'altra parte, per l'alternativa che in questi 17 anni, diciamo, non c'è stata mai veramente. Ah, quindi Alfano, non Alfano, Alfano è meglio di quello che c'è dall'altra parte. In sintesi. No, non ho detto che è meglio. Come tecnica, però. Berlusconi è un test. Lui butta lì Alfano, vede l'effetto che fa. Poi proverà altri, vedrà l'effetto che fa. E poi, come fa, ha sempre fatto nelle sue aziende, come fa tutti i giorni, ricordo appunto con il mattinale, che è quello che racconta al popolo degli eletti, del popolo della libertà, giornali, reazioni, effetto dei programmi televisivi della sera prima, insomma io ho avuto la fortuna di leggerlo diverse volte, dirà Alfano è andato così così, quell'altro volare, poi vuole vedere soprattutto le reazioni interne, no? Per me c'è Tremonti, certo. C'è Maroni, ce ne sono tanti, io sinceramente nell'immediato una successione Alfano non la vedo, ecco, se mi lo chiedi a me, però insomma lui chissà, sta valutando. Ma chi è che li scrive in quei mattinali? Ma guarda, tanti, sono tanti affluenti che poi vengono, mi sembra, coordinati da Tino Oldani, che è stato brillantissimo caporedattore di Panorama, che credo lo metta insieme e poi lo mandi via mail. Infatti, se ci fai caso, nella mattina non ci sono molte dichiarazioni di agenzia, diciamo, dei dirigenti del Popolo della Libertà, perché si aspetta un po' di capire la linea e poi però scattano e sono tutte piuttosto simili. Ma questa è, io guarda, non ho, cioè, sono ammirata. No, ecco, questo è coordinamento, certo. Di golpe, le proposte di golpe che le diciamo dall'altra parte, fino alla proposta quotidiana di Inciucio che qualcun altro a giro presenta, insomma almeno c'è un po' di ordine. La proposta di golpe, per chi se la fosse lasciato sfuggire, era il pezzo di Azurrosa schiosato con grande rumore da Giuliano Ferrara, nel quale si chiedeva praticamente che il capo dello Stato facesse come Vittorio Emanuele con il cavaliere Benito Mussolini, in parole povere, lo convocassero, lo facessero uscire con una ambulanza e i carabinieri e la polizia che sospendano per un po' di garanzie, perché c'è bisogno assolutamente di una cosa di questo tipo, perché altrimenti non se ne esce. Allora, Secchi, invece, sua impressione, Barbara Plumbelli ha un'opinione chiara, è una tecnica di sondaggio, dura quanto dura, ma intanto movimenta il dibattito e consente anche un carotaggio interno in questo centrodestra oramai scosso da domande, perplessità, chi starà con chi il giorno in cui comunque arriva un sisma un po' più forte del solito, e a quel punto chi deve decidere cosa fare, sotto quale sigla, vicino a chi e contro chi all'interno dello stesso centrodestra. Lei che ne pensa? Ma che le successioni in politica non vengono decise dal capo, mai. Non ho mai visto un capo farsi, come dire, allargare la strada alla sua successione, cioè, non esiste, non... È come pensare che la politica possa autoriformarsi eliminando quelli che sono gli sprechi, i privilegi, così. No, è il paradosso dell'autoriforma, no? E quindi in questo caso siamo di fronte al fatto che Berlusconi non prepara la sua successione, non ne ha nessuna intenzione ed è naturale che sia così. Aggiungo che anche se volesse, e secondo me non vuole, ma è una di quelle cose che non è nella sua disponibilità. Ci sono molte cose nella disponibilità di Berlusconi, ovviamente, ma la sua successione no, e per un semplice motivo, che sa anche lui ovviamente, perché è un uomo intelligente. Lui è figlio di un'anomalia, non è il prodotto di un sistema dei partiti, ma è il prodotto del disfacimento del sistema dei partiti. Aggiungo di più, è il prodotto del collasso del sistema dei partiti così come l'avevamo conosciuto fin dal dopoguerra. Quindi è un uomo non partito, apartitico, non politico, apolitico, che non può produrre il suo successore con metodi politici. Il suo successore verrà prodotto con, invece, fuori dal sistema dei partiti, con il sistema esatto, preciso, con cui è stato prodotto Berlusconi. E sapete come? Il voto. Il voto quale? Il voto politico. La successione a Berlusconi, il nuovo Berlusconi, arriverà dalle elezioni. Ah, ecco, dalle elezioni, cioè dalle urne dagli italiani, il che significa che, certo, chi vuole sostituirsi a Berlusconi deve mettere in piedi qualcosa di paragonabile, ci vuole una Montezemolata, certo, deve mettere in piedi qualche ci vuole cosa qualcuno che abbia a cuore questo paese, che dica meno tasse, meno Stato, che decida, esatto, di presentarsi, di salutare Berlusconi e la sua squadra, di dire hanno deluso e tradito, noi non prenderemo lo stipendio, non lo ritireremo perché vivremo del nostro, fino a che non porteremo a questo paese una maggioranza capace in numero mesi 6 di abbattere di X punti di PIL la spesa pubblica, cosa che, attenzione, chissà che davvero Secchi non ci indichi la strada da seguire rispetto a chi ne ha un po' le scatole piene di queste chiacchiere non mantenute. Oh, certo. Però questa è la soluzione, che significa, invece di appellarsi al Quirinale, invece di appellarsi alla giustizia, eccetera, eccetera, chi ne ha le tasche piene faccia. E questo riguarda anche chi sta nel centrodestra, ma chi sta anche dentro il centrodestra attuale, secondo te? Sì, assolutamente sì. Cioè, voglio dire, è impossibile pensare che Berlusconi possa battezzare un suo successore. Ma è logico, ma voi ve ne immaginate che cosa succede nel PDL un minuto dopo, anzi sto esagerando, un secondo dopo l'eventuale nomina? Il PDL non esiste più, cioè il PDL si sfascia in 3 secondi, perché il PDL nel bene e nel male, Berlusconi. E questo non è una diminuzione del partito, attenzione, quel partito ha una forma carismatica, non c'è niente di cui diciamo così lamentarsi, perché è la forma partito del post Mani Pulite, no? Aspetta un secondo, su questo tema l'hai detta chiara, voglio sentire Barbara Palombelli, cosa si aspetta? Si aspetta che ci sia, fino a che Berlusconi resta su piazza in questa legislatura, prima di capire che fine fa, se si ricandida, non si ricandida, i processi, eccetera. E esiste una possibilità di dare un qualche credito al percorso che puntualmente anche oggi si rilegge sui giornali, i congressi locali, un congresso nazionale, una forma partito in qualche misura? Oppure ha ragione Mario Secchi, sono tutte chiacchiere, non ci sarà mai. Assolutamente ragione Mario Secchi. però il problema non riguarda il Popolo delle Libertà, non esiste più nulla che stia insieme in Italia. E non è un caso se viene sempre agitato il nome di Luca Cordero, perché Luca viene sospettato, ho detto l'altra sera alla 7, in positivo, di essere un aggregatore. Ecco, dopo questo sfascio che riguarda però trasversalmente tutti, basta pensare che chi è che ha aiutato Berlusconi a superare lo scoglio del 14 dicembre sono le persone elette nell'Italia dei Valori con Di Pietro, ecco, e mi fermo qui perché potrei raccontare 10.000 paradossi, no? Allora, si è visto che Fini non riesce ad aggregare e ottenere i suoi, si è visto che il PD, pur assistendo a questa carambola di Berlusconi che ogni giorno leva il fiato anche a chi non ha assolutamente passione, sai che io non ho passione per la vita privata dei politici di nessun tipo, però insomma il fiato ce lo toglie tutte le mattine, nonostante questo non riescono a stare appiccicati due leader o semi leader del PD insieme. C'è stata la scissione di Rutelli, ma poi ogni giorno c'è una mini scissione di Franceschini da una parte, Letta dall'altra, la Bindi gioca per conto suo, Bersani non si sa più con chi parli, Veltroni c'è la corrente, insomma D'Alema sta sull'Aventino, insomma ce n'è di tutto, no? Quindi io mi domando, e questo lo domando a te che appunto come me segui da tanti anni la politica, ma chi riesce a stare con chi? Insomma, questa mattina mi sembra che una delle persone più vicine al sindaco di Roma si è dimessa da una municipalizzata. A Milano sappiamo benissimo che Formigoni e Moratti, insomma, un po' il gatto e il topo. Ecco, chi sta insieme con chi, Oscar? Non è solo un problema del Popolo della Libertà, magari fosse solo un problema del Popolo della Libertà. Sì, direi che io la penso molto come Barbara Palombelli. Se questa è la direttrice, piuttosto che lamentarsi, bisogna organizzarsi in vista delle elezioni. Secchi, ma ti rendi conto, naturalmente sì, che questo è un segnale di liberi tutti, per chi ha intelligenza e un qualche senso ancora residuo di esperienza politica, cioè per chi non è un cameriere o una serva eletto nel centrodestra, perché significa, cari ragazzi, invece che perdere troppo tempo, auto-organizzatevi e da soli, perché se paracadute non ne avrete più. Ma vedi segni di questo, al di là di qualche segno tipo Scajola che gli sta vicino, oggi il compleanno di Gianni Letta, amici di Gianni Letta in qualche maniera sono presenti, organizzati oppure no? Tu che vedi? Ma dunque, io vedo una cosa che definirei il malfrancismo, no? Che però non va, che però non è iniziativa politica. Ma certamente. Perché, per esempio, Giulio Tremonti, il miglior cervello di questo governo, c'ha amici, sì, nei gruppi e prepara qualcosa? Ma no. No. No, Giulio Tremonti è l'esempio. Anzi, non ha amici. Bravo, ma Giulio Tremonti, tu hai fatto il nome giusto, guarda. Giulio Tremonti è da qualche anno la punta di diamante, di quello schieramento, no? L'uomo che ha più cervello, l'uomo che ha più carisma. Cioè, è semplicemente la sua politica, perché tutto il resto, insomma, esatto, poca roba. Ecco. È la sua politica, e soprattutto è una politica che ha una grande rispettabilità a livello europeo. Dico, sì, bene? Come no. Ecco, allora, quanti sono le truppe di Giulio Tremonti in Parlamento? Zero, da dovessi dire sinceramente, potessero averne la testa su un palo, gioirebbero. Zero. Questo la dice tutta sul grado di coesione di quel partito. Ma allora Giulio Tremonti si deve auto-organizzare anche lui con qualcuno fuori e dentro? Perché lui di testa politica ce n'ha, secondo te? Sarà così? No, secondo me non sarà così. E che fa? Aspetta la fine? No, ma guarda Oscar, il post Berlusconi è in una certa maniera già scritto. Mm. Cioè il post Berlusconi sarà una sorta di Big Bang, per cui, come dici tu, liberi tutti. Ma nessun aggregatore nel PDL, a meno che, quindi stai dicendo che Tremonti non starà in qualcuno di quei veri gruppi che si presenterà con la PDL. Che ne pensa Barbara Palombelli dell'incognita Tremonti, la politica del centrodestra mal vissuta dal più dei componenti politici del centrodestra? Che futuro darsi fuori dal centrodestra? Ah, no, io penso una cosa, io penso che se l'autunno, come tutti gli indicatori internazionali e come la tua radio racconta, ahimè, non tanto tra le righe, ma insomma nelle sue trasmissioni, si presenta piuttosto pericoloso anche per l'Italia, non soltanto per gli altri paesi europei, probabilmente il nome di Tremonti potrebbe essere il nome che viene fuori per un governo magari fino alle elezioni del 2012, un governo di coalizione tecnico che serve appunto a rimettere a posto i conti dello Stato. Si parla di una manovra di 30, 40, qualcuno dice 50 miliardi di euro che dobbiamo in qualche modo mettere in cantiere. Questo potrebbe, diciamo, far passare anche la voglia di fare tante cene e far finalmente mettere al lavoro la classe dirigente che nei vari schieramenti abbiamo eletto, che mi sembra invece, come dire, Oscar, io non so, trovo una frivolezza che non riguarda le notti del Cavalieri, ma riguarda le giornate del Parlamento, le giornate degli eletti. Mi sembra che siamo a un livello di asilo, insomma, non lo so, forse sono un po' anziana. No, non siamo anziani, non credo. La gente preoccuparsi, ecco. Insomma, ci sono i nostri figli senza lavoro. Esatto. C'è una disarticolazione del mondo del lavoro che va dalla Marcegaglia a quello che non sa se può aprire una bancarella o no, perché poi le famose lenzuolate, le liberalizzazioni, tutte queste chiacchiere stanno a zero. Se per caso vuoi iniziare un'attività privata per conto tuo in Italia, devi ancora andare dall'amico. Esatto. Dell'amico, diciamolo. E come salire agli 8.000 senza... Anche a Torino. A Venezia. Non c'è dubbio. È una cosa indecente in un momento di crisi con i precari che non sanno... Non possiamo mandare tutti i nostri figli nei call center. Non c'è dubbio. E questa è una cosa che con quattro figli, se permetti, mi piacerebbe che la mia area, ma non solo... Qualcuno si occupasse. Stanno sempre a chiacchierare esatto. Di Berlusconi. Credo che questo sia lo stato d'animo di tanti. Mi resta il dubbio, perché la faccenda di Tremonti, secondo me, è davvero uno dei passaggi centrali. La prudenza di Tremonti, che non raccoglie tante provocazioni anche all'interno del suo schieramento, mi ha sempre fatto riflettere. Se ci pensate bene, è una linea di formalina, come la chiamo io, quella del ministro. Non ci credo, non ci ho mai creduto che il ministro Tremonti non voglia davvero fare delle scelte impegnative. Il problema è che finché non c'è un quadro politico certo, finché c'è la lunghissima parabola in discesa di questo governo che non lo coinvolge più di tanto e del Presidente del Consiglio che non lo coinvolge più di tanto, se fosse qui direbbe naturalmente che sono pazzo, che naturalmente non è vero, però mi prendo la libertà di dirlo, finché è così non si sceglie. E questo è un po' il paradosso per cui poi a molti Tremonti non sembra più neanche lui un titolare di linea. Vedremo. Intanto la pubblicità. Eccoci tornati, cominciamo con un po' di opinioni rapide di ascoltatori che si sono messi in fila già da prima. Michele da Milano, come la pensa Michele? Credere o non credere è solo un test, come ci dice Barbara Palombelli, l'annuncio che potrebbe seguire. A dire la verità, sui giornali di oggi già trovate Alfano che dice: ma neanche per idea, non ci penso neanche, non viene così, certo la scelta del dopo Berlusconi, che chissà quando sarà, magari non ci sarà mai. Michele da Milano, che ne pensa? Sì, buongiorno direttore. La scelta, anzi la boutade di Berlusconi stuzzica più la fantasia dei giornalisti piuttosto che quella dei cittadini. Innanzitutto questa è una bella opinione per la serie che ci frega, insomma parliamo di cose concrete, però prego Michele. No, non mi esimo dal dare un giudizio su questa proposta di Berlusconi, perché al netto della tattica di Berlusconi di rispondere a tutti quelli all'interno del PDL che in questo momento stanno facendo anche un'opera di resistenza nei suoi confronti, parlo di Scajola, parlo anche di altre correnti che in un momento drammatico cercano di remare contro quel poco di buono che si sta contribuendo. Credo che sia necessario, piuttosto che una designazione da parte del capo, una seria riflessione su chi in questi anni di governo di Berlusconi ha dato prova di saper governare e di saper risolvere problemi che bene o male... Michele, però come nei vecchi partiti, per succedere, quando i partiti leadership, capi corrente, Presidente del Consiglio mostrano la corda, per succedere, siccome in politica nessuno ti regala niente, tu devi avere anche tirato fuori una capacità polemica, devi essere stato capace di proporti come un'alternativa, come un riferimento, senza arrivare ai piatti volati e agli insulti personali come hanno fatto Berlusconi e Fini quando hanno provato ad animare una dialettica di cui non erano capaci nessuno dei due, perché Berlusconi non ce l'ha e non ce l'ha mai avuta e non si è neanche mai spacciato per un leader di partito. Quando Fini ha voluto fare il leader di un partito democratico, non avendocelo nel DNA neanche lui, è rapidamente arrivato a una specie di lo scontro delle Termopili, sembrava la battaglia della civiltà occidentale contro i barbari persiani che arrivavano, il che fa ridere perché testimonia che non sei capace di fare politica dopo tanti anni nell'area del centrodestra. Lo dico così, con rispetto personale, però questo nel centrodestra c'è, questo è il punto, ci sono i leader, oltre a quello che ci hanno fatto sempre governando, capaci di mettere una critica crescente, tagliente, corrosiva, sia pur condividendo le responsabilità nei confronti dei limiti evidenti della leadership di Berlusconi. Li avete visti voi in questi anni? O vedete una quadrata legione di chi di fronte ai problemi, ai guai, eccetera, eccetera, snuda il brando e dice Orazio Sol contro l'Etruria tutta, Procombe Rosso, l'io? Ecco, perché senza la prima cosa, l'alternativa centrodestra sarà fuori all'attuale centrodestra. Qualcuno che scende in politica mettendo in piedi qualcosa di diverso per candidarsi a prendere i voti di chi vuole meno Stato, meno tasse, ed è stufo di non averlo. Marco, da Roma, che ne pensa? Sì, buongiorno innanzitutto Giannino, buongiorno anche ai suoi ospiti. Mi sembra evidente ovviamente che l'analisi fatta sia da Secchi che dalla Palombelli siano diciamo lapidarie, e sottolineare il fatto che il nostro Premier sia un prodotto, è vero, del scardinamento del sistema politico è chiaro, cioè un'anomalia, e invece quello di Palombelli, che ovviamente Alfano è meglio di qualcosa che non c'è di là a sinistra. Io invece volevo porre l'attenzione su un fatto. È chiaro che, e questo è sotto gli occhi di tutti, che a volte comandare, governare non è semplicemente o solo dare ordini, no? Ma è anche l'assunzione di responsabilità di ciò che si dice, certo, di ciò che si afferma. Certo. Nel gergo tecnico, vorrei fare un parallelo, ciò che ha fatto il nostro Premier è una battuta di pesca, cioè ha pasturato, pasturare, ha pasturato, dice. Sì, com'è? Gettare lì una pastura, vedere chi abbocca, quali specie, sì. Quali... Barbara Palombelli in qualche misura questo diceva quando diceva un sondaggio, sì. Esatto, è un vero sondaggio, ha pasturato, eccetera. Io invece dico un'altra cosa. Si può pescare, sì, ma bisogna vedere in quali mari si pesca, sì, no? Sì. Benché la Cina sia stata fatta adesso, non so in quale palazzo, eccetera, ma è chiaro che era un mare oltre oceano, è una pesca, una battuta di pesca oltremare, ovvero non è che queste affermazioni minano, ovvero confermano l'ulteriore non credibilità del nostro, diciamo, tricolore, che perché è già troppo basso. Ma sì, è troppo basso, sì. Nel senso, io mi metterei, vorrei stare tra le dita delle tastiere di quei giornalisti, di quei reporter, sì, che battono le notizie, eccetera, e perché dicono nella loro mente, no, con dei versi tipo da fumetto, cioè, ma questo è proprio un pupazzo, prima dice una cosa, poi ne dice un'altra, scusi se no. Critica in un low profile, ma si riallaccia a quella critica che le diceva lei, no? Benissimo. Grazie Marco, il problema è che io non do sempre ragione alla stampa estera per definizione, il problema è che se noi eterniamo i suoi cliché con cui ci leggono la stampa estera, cioè gli italiani poco seri che trasformano 30.000 migranti, manco fossero 300.000 o 3 milioni, e giustamente i tedeschi ridono con le centinaia di migliaia di cui si sono dovuti occupare all'est, i Balcani, tutte le ondate della post caduta muro. Ecco, allora, se noi eterniamo il mito dell'italiano ridicolo, questo è più grave di quello che scrive la stampa estera, che talvolta esagera. Il problema siamo noi che terniamo i suoi cliché. Stefano, che ci chiama anche lui dalla provincia di Roma. Prego Stefano, che ne pensi? Salve Giannino. Guardi, io non sono, ho 57 anni, convivo ormai con Berlusconi da 17 anni, non mi preoccupa il problema di Berlusconi, perché gli italiani abbiamo bisogno intanto di un padre tipo Mussolini, questa gente qui. Il problema è che alla fine poi lo scegliamo noi, un personaggio del genere, no? Il problema in Italia è a monte, cioè quello che mi preoccupa per quello che sarà la vita futura di mio figlio e via discorrendo, è due grosse situazioni che di cui raramente si parla. Quali? E che non sono eleggibili. Quali? E sono la Chiesa Cattolica e le mafie in Italia, cioè questo è il grosso problema dell'Italia. Aia, lei dice che la Chiesa è così decisiva per la scelta del post Berlusconi, la Chiesa. Lei capisce che abbiamo due organizzazioni di grosso rilievo. Sì, ma voglio dire, la Chiesa rispetto a Berlusconi è stata così fondamentale, no? Esatto, allora vede, adesso ovviamente in 10 secondi, ecco, non possiamo fare, ecco, però lei capisce che se non parliamo seriamente di due grossi fenomeni millenari, scenario. Sì, ho capito, ne abbiamo parlato, però lei dice questo sarà decisivo o come per il dopo Berlusconi? Per me Berlusconi può stare dove sta perché è eletto dagli italiani, rappresenta gli interessi della maggior parte degli italiani e io non sono un berlusconiano. Esatto, lei dice il problema è quello, non ho capito come Chiesa e mafie decideranno o non decideranno, però ci segnala questo problema. Giuseppe, che chiama da Bergamo, prego Giuseppe. Sì, buongiorno Giannino, buongiorno a voi tutti. Io sono convinto che il post Berlusconi sarà Ferdinando Casini. Oh, nomi, perché lei dice solo il centro rispetto alla legge elettorale, ma dico questo per un semplice motivo, all'interno del PDL ci sarebbero delle guerre intestine incredibili. Ma le guerre bisogna che accadano, perché altrimenti se il centrodestra credono di aspettare il giorno in cui Berlusconi ha perso, non c'è più niente da ereditare. Arriva qualcuno da fuori e se lo prende. Mi perdoni, no. L'ultimo ascoltatore ha detto una cosa secondo me giustissima. Sì. In Italia pochissime persone parlano di un movimento importantissimo e potentissimo, è quello del Vaticano. In Italia un movimento è diventato perché e chi è il suo candidato politico? No, movimento, attenzione, perché la CEI, la Chiesa è un'organizzazione, dico, non clandestina, ma non è che si occupi di candidati alle elezioni, se non diciamo quando c'è stata una lunga fase, però dopo la fine della Prima Repubblica la Chiesa in realtà ha tentato di seminare con la strategia di Ruini nuclei, presenza, forza, anche intransigenza cattolica di qua e di là. E quindi perché adesso dopo Berlusconi dovrebbe scegliersi un candidato? Tornerebbe a questo secondo lei? Una sinistra in Italia che intanto è davvero veramente brancola nel buio, cioè questi qua poverini, con tutto rispetto per la sinistra, non sanno che pesci prendere, cioè veramente sono allo sbando, da Vendola a... Va bene, però non ci allarghiamo alla sinistra, stiamo parlando dopo Berlusconi. La Chiesa è un punto importantissimo. Siccome l'unico collante può essere un uomo che appartiene alla Chiesa e pertanto, cioè proprio di area cattolica cristiana, che potrebbe essere per Ferdinando Casini, lascia perdere quello che penso io. Lei dice collante di questa maggioranza di un centrodestra diverso senza Berlusconi e con... Sì, ma le dico di più, che Berlusconi, facendo il nome di Alfano, l'ha bruciato in questi l'ha giorni. Bruciato e questa è un'altra lettura possibile, però allora perché non pensare a un centrodestra più organico? Faccio il nome di Roberto Formigoni, secondo voi ha la quarta legislatura di successo perché vince, non sto perché dando il giudizio, in Lombardia, il cuore pulsante di tutte le diverse rivoluzioni del centrodestra italiano della Seconda Repubblica, non avrebbe carte se si candidasse? Non lo so, dipende se si vuole candidare. Fabio da Bolzano, prego, rapido. Sì, buongiorno. Io, voi avete accennato, io confido, spero che veramente arrivi Montezemolo, nel senso che sicuramente... Ah, lei spera in Montezemolo? Sì. Perché? Beh, io lo voterei subito. Perché spero? Perché ha una capacità aggregatrice di cui abbiamo tremendamente bisogno oggi. Certo, non so se aggregherà Vendola o certamente non la sinistra radicale, però credo che abbia in mente comunque un interesse del paese, mi spiego, inteso come la necessità che il paese si unisca, che Berlusconi non ha, ma che anche altri partiti magari, o certamente il PDL, non avrebbe nel dopo Berlusconi. Io temo che ce ne dovremmo occupare di questo fenomeno presto o tardi, temo di sì, anch'io. Io sono un po' scettico, per così dire, perché io l'ho sempre dichiarato, io penso che ci vuole un'iniziativa che punti alla pancia di quella un po' meno elitaria del centrodestra, quella che dice veramente dateci una garanzia di meno tasse e meno Stato. Io sogno un'iniziativa di questo tipo, lo chiamerei PIL, e penso che chi lo fa nel nord ramazza un bel po' di consenso. Se poi ha qualche leader presentabile, il rischio di sorprese, come ci insegna la storia della Lega agli inizi, è molto forte. Quindi questa è la mia idea. Quello di Montezemolo è un altro schema, e quello che lei suggerisce è in effetti quello che ho capito anch'io, mi lascia un po' più così, però può essere che dal punto di vista dell'effetto elettorale sia molto più forte. Bruno dalla provincia di Monza Brianza, prego Bruno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo dire questo, secondo me è ancora abbastanza prematuro che Berlusconi lasci. Non c'è nel centrodestra, a mio avviso, io sono del centrodestra, sì, un personaggio che abbia il suo carisma. Sì. Quindi dovremmo aspettare ancora qualche tempo, almeno un'altra legislatura, altri 5 anni, sicuramente. Ma al di là di questo siamo fortunati, perché dall'altra parte abbiamo un centrosinistra che è un ammasso di cadaveri, quindi... Ci va benissimo. Grazie Bruno, che dice altri 5 anni di Berlusconi, perché con gli altri così conciati come stanno, ma di cosa stiamo parlando? Ora abbiamo l'informazione stradale e poi torniamo con l'opinione del direttore di Tempi Luigi Amicone e la conclusione col direttore di Tempo, del Tempo, direttore di Tempi Luigi Amicone, e poi direttore del Tempo, la chiusura con Mario Secchi. Allora, ci ha raggiunto Luigi Amicone, il direttore di Tempi. Chiediamo a lui cosa pensa della dichiarazione durata un giorno su "potrei non presentarmi", Alfano possibile candidato, un abile sondaggio come ci ha detto Barbara Palombelli, comunque non utile come ci ha detto Mario Secchi, direttore del Tempo, perché tanto la risposta dell'alternativa, il successore, comunque lo si voglia chiamare, se ci sia continuità o meno del centrodestra, a Berlusconi nel centrodestra, ma verrà fuori da questo tipo di indicazione da qualcuno che prenderà il coraggio a due mani e si proporrà per candidare nei voti, nelle urne, saranno gli italiani a sceglierlo. Che pensa il direttore di Tempi, Luigi Amicone? Ma io penso che certamente Alfano è un'ottima persona, un'intelligenza, una freddezza politica, un uomo di talento e di valore, però lei ha fatto prima un nome e naturalmente detto Formiconi e naturalmente oltre al fatto che è un amico che conosco da 40 anni c'è la realtà, no? Una realtà molto obiettiva, per cui chi vive in Lombardia sa che oggi è una regione che sembra un altro paese rispetto al resto dell'Italia, su tanti perché? Non perché sono migliori, non perché la Lombardia è migliore, ma perché c'è una storia di amministrazione, c'è una storia di intelligenza sociale sotto tutti i profili, dalla sanità alla scuola, alla politica del lavoro. Insomma, ha accumulato in questi ultimi 20 anni, mentre nel paese esplodeva, e partendo da Milano paradossalmente, quindi resistendo anche, diciamo, a forze che obiettivamente non hanno aiutato e non stanno aiutando, come si vede in questi giorni, no? Lo sviluppo, diciamo, di un orizzonte sociale, democratico, civile, di progresso, quindi che interpreterebbe anche le aspirazioni della sinistra sociale ove ci fosse. Quindi Formiconi dovrebbe essere il candidato in linea teorica, però è chiaro che ci vuole anche come dire, il coraggio, prendersi il rischio. La politica, ricordava Weber, Schmidt, eccetera, implica carisma, fortuna e quindi essere pronti a combattere. Formiconi, la Lombardia con la sua accumulo di riformismo, io ricordo qualche anno fa ci fu quel tentativo di Formiconi di mettere insieme anche fuori dal PDL, no? È un modello che funziona e che può essere esteso in tutta l'Italia. Certo è, e qui la funzione di Berlusconi ancora è paradossalmente vitale, che finché non matura quel bubbone che deve esplodere, perché noi siamo fermi al 93, siamo fermi all'idea che una politica, una nazione possa essere fatta impugnando codici e leggi. Ora, i codici e leggi sono gli argini per funzionare, le condizioni per, ma dietro la legge c'è la legge, non è che c'è un orizzonte politico, non è che uno che legge tutti i giorni certi quotidiani che hanno soltanto documentazione verbale, intercettazioni, poi immagina che da quello possa sortire qualche via. No, questo è il problema. Non è. Quindi finché questo bubbone non esplode e diciamo questa partita tra poteri non viene riportata nel solco della dimensione democratica, ma del funzionamento di un organismo normale, cioè che esistono degli anticorpi, benissimo, ma poi l'organismo deve mangiare, bere, dormire, fare delle cose, lavorare, no? Non è che solo una riflessione, Amicone, ancora aggiuntiva. Ha sentito che gli ascoltatori dicono: beh, non trascuriamo il ruolo che potrebbe avere la Chiesa come messaggio ai moderati per il centrodestra in un mondo in cui non è più Berlusconi il candidato. Lei che pensa su questo? Io penso che dal punto di vista istituzionale ognuno può fare la riflessione diciamo su di sé, sull'esperienza quotidiana. La Chiesa oggi come istituzione abbia un peso che equivale, non so, forse minore quello dei Vigili del Fuoco. Certo che uomini che abbiano una struttura educativa e quindi teste che diciamo dimostrano di vivere fino in fondo la dottrina sociale cristiana, che è una cosa cospicua, diciamo così, possono fare la differenza, ma in quanto istituzione, in quanto tale, quindi come agenzia di potere, mi pare che mi pare che sia osteggiata e sia minoritaria culturalmente. Io devo dire che la penso come Luigi Amicone, trovo che il ruolo che viene attribuito alla Chiesa dalle reazioni, chiamiamole laiciste per intenderci, cioè, sapete quando Repubblica fa i titoloni dicendo i vescovi vogliono imporre, oppure i vescovi vogliono imporre, a me vecchio laico che però insomma, diciamo, ha rimesso a posto un po' di equilibrio rispetto alla responsabilità della storia nella propria coscienza, mi scappa un po' da ridere, perché penso che i primi che vorrebbero davvero metà del potere che viene loro attribuito sono i cardinali di curia. Mario Secchi, conclusione rapidissima, chi avrà il fegato per uscire dal recinto del centrodestra in costanza di legislatura e dire mi candido io, qualcuno di loro o qualcuno da fuori? Nessuno dentro, assolutamente. Ah, per tutti che... codardi? Ma no, è per il paradosso appunto dell'autoriforma, per l'istinto di autoconservazione. Nessuno dentro, senza voler dare giudizi, ma è così. È da fuori, secondo me, cioè, ne vedremo delle belle. Ne vedremo delle belle. Su questa conclusione vi prometto che anche noi, man mano che ci avviciniamo al momento nel quale far prendere una decisione a qualcuno, per questo ipotetico, per me però ideale, sigletta che si chiama PIL e che dice lo Stato faccia quel che deve, ma solo dove lo deve fare, cioè in meno posti, in molti meno posti di dove ce lo troviamo tra i piedi oggi, e cifre precise di meno spesa pubblica, meno tasse, in assenza del cui conseguimento, finché non ci sarà una maggioranza su questi obiettivi, noi iniziamo, come avremo altro da fare nella vita, a continuare a farlo, perché non ritireremo i nostri stipendi e questo sarà il nostro contributo al risanamento della finanza pubblica. Tre punti secchi, come vedete. PIL, c'è qualcuno che ha fegato e palle per pensare che si prendono voti di moderati che non ne possono più di come funziona il centrodestra e che però non si ritrovano nelle patrimoniali e nel fatto che nei rapporti sociali e nei contratti si propone ancora un'Italia come quella della FIOM. Questo è ciò che promettiamo di proporvi, perché ne vedremo delle belle, sono d'accordo, sia con l'amarezza di Barbara Palombelli, sia con questa tagliente conclusione del direttore di Tempo. Quanto alla Chiesa, la penso come direttore di Tempi. Invece, a lunedì e ora linea al Giornale Radio.